Carissimo fratello, è tanto tempo che non ho nuove di te. Son persuasa saranno terminati i viaggi, tra i trasporti, le provvigioni dei tabacchi, il sale. Mamma mi aveva promesso di mandarmi presto a prendermi. Come tu saprai, mi dice essa di rivestirmi. Caro fratello, non tardare, ti prego. È molto che sto in questa galera. Come dicevo e vi ripeto che ci si attaccano dei mali. Mi piace star con i miei, andare in case buone a lavorare. Te lo dirò quando sono tra voi. Non mi perdo di coraggio, a tempi persi vado a ritrovare la mia brava maestra. Con me si sanno ben contenere. A capo alla settimana mi danno un po' di soldi che me ne avanza. Quanto sono felice di mandar tanti saluti alla tua buona moglie. Almeno con le vostre fatiche mi potrò discredere di qualche cosa, avendo bisogno di un sorso di caffè puro. I miei più cari parenti mi hanno ottenuto tutto, come anch'io speravo di contraccambiare, che non ebbi tempo, ma penserò in qualche modo a contentarvi. Dirai a tua moglie se manda Marta a prendere in casa un fazzoletto con qualcosa di panni, che non so dove si ritrova il mio fardello. Mi ricordo d'averci quella vitina buona guarnita di velluto, alle maniche al collo. Mi dispiace comandare, ma non c'è di meglio della sveltezza di Marta che sa anche ben ringraziare. Ti parlerò, caro fratello, con comodo quando sarò con te. Mi ricordo d'avere un regalo adatto, chiedendoti il permesso, se sarai contento, di portarlo al signor Domenichino, fratello della signora Giacinta. Fai tanti rispettosi saluti a tutti. Fanno molto bene avere relazioni con persone di riguardo. Mi fece molto comodo avere una lettera da buone mani. Assaggiai qua del vino che adoprano per la messa, squisitissimo, e ringraziando la provvidenza so persuasa che mi trovino in buono stato.